Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno da Nicoletta Carbone, finalmente insieme. Eccoci qui, da sabato scorso abbiamo ripreso le buone abitudini e così si è riaperto il salotto che mi piace definire buono di Radio 24, quello dove ogni settimana invitiamo a sedersi tutti i genitori, mamme, papà, ma anche i loro figli, i nonni, e proviamo insieme a crescere bene. Naturalmente qui, seduto davanti a me, Alberto Pellai, il mio coinquilino. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma noi andiamo di corsa perché in studio qua con noi abbiamo un ospite di grande prestigio e che a molti di voi risulterà quasi come un'amica di famiglia, e io sono molto emozionata e naturalmente sono onorata di avere qua con noi Isabella Bossi Fedrigotti. Ciao Isabella. Ciao, buongiorno. E l'abbiamo chiamata perché in realtà proprio in queste settimane è uscito in libreria il suo nuovo libro, Se la casa è vuota, Longanesi Editore. L'abbiamo letto, è un libro che ci ha molto emozionato. Devo dire che al di là delle emozioni che suscita, ci ha fatto molto pensare. È un libro che ti rimane dentro anche quando l'hai terminato. Finisce l'ultima pagina del libro e il libro continua a parlare dentro di te. Quindi un libro che noi abbiamo voluto così definire con due aggettivi: intenso e doloroso, a cui abbiamo dato il bollino blu di Questa casa non è un albergo. Libri che segnaliamo, che ci piacciono in modo particolare, che ci aiutano ad accendere pensieri, come dice Alberto. Isabella, tu tra l'altro sul Corriere della Sera parli frequentemente di famiglia e parli con i tuoi lettori anche di problemi di famiglia. Mi sono domandato se ti consideri a volte una sorta di educatrice moderna, cioè attraverso il lavoro che fai come scrittrice e giornalista, pensi che le tue parole possano in qualche modo lasciare il segno, cambiare un percorso, oppure tu sei una persona che scrive descrizioni, che testimonia? Ovviamente piacerebbe che le parole, tutti i giornalisti o tutti quelli che scrivono, amerebbero che le loro parole restassero o che suscitassero, provocassero un cambiamento o comunque una presa di posizione, un aggiustamento di qualche genere. Però chi sono io per insegnare? Io ho fatto, proprio scrivendo questi libri, mi sono resa conto degli innumerevoli errori che ho fatto nell'educazione dei figli, e perciò preferisco soltanto raccontare. Allora io vorrei, prima di parlare del libro di Isabella Bossi Fedrigotti, di entrare un po' nel tema, io vorrei proprio farvi ascoltare. Isabella dice: preferisco raccontare, secondo me racconta bene. Contro la solitudine, gli adulti si iscrivono, per esempio, a un club, a un circolo, a un partito o anche solo a una palestra. Organizzano riunioni, inventano incontri, feste, ricercano vecchi amici, viaggiano, fanno volontariato. Tutte strategie estranee ai bambini e ai ragazzi, perché frutto di analisi che implicano maturità e ponderatezza ben lontane dalla loro portata. E allora succede che in un modo o nell'altro si ribellino contro la solitudine, come contro un'ingiustizia immeritata e insopportabile. Chi con violenza, chi con la fuga, chi rivoltandosi apertamente contro le regole, chi sottraendosi e nascondendosi dentro di sé. Altri, nel tentativo di uscire dal loro isolamento, vorranno trovare degli amici e, poiché lo fanno con ansia e disperazione, succederà che stringeranno patti con i primi venuti, con quelli che sembreranno loro più disponibili e più attraenti, e potrebbero rivelarsi i peggiori, capaci di trascinarli per strade dalle quali poi è difficile tornare indietro. Per tutte queste ragioni avrebbero diritto i bambini, i ragazzi, a non essere lasciati soli. Isabella, eravamo meno soli noi? Io penso che nella maggioranza dei casi eravamo meno soli, perché avevamo famiglie più grandi, forse avevamo qualche fratello in più di quello che non succede adesso, forse avevamo qualche nonno che stava in casa, qualche zia. Adesso con i prezzi delle case questo è impossibile, ospitare familiari, parenti in casa, perciò case, famiglie piccole, case piccole. E poi non necessariamente entrambi i genitori lavoravano. Qui voglio fare una precisazione: da madre che ha lavorato sempre, ovviamente sarei l'ultima, sono l'ultima a dire qualcosa contro le madri che lavorano. Sono le madri e i padri che lavorano. Non c'è soluzione, non vedo soluzione, non propongo soluzione. Non si può rinunciare al lavoro. Soprattutto oggi. Soprattutto oggi. Quello che io dico sono le uniche due piccole suggerimenti che a libro chiuso oserei fare. Uno, le nostre scuole sarebbe bello che rimanessero aperte, non necessariamente per insegnare, ma che rimanessero aperte come luogo protetto di ritrovo per i ragazzi. Sappiamo, alle elementari hanno il tempo pieno, alle medie pochissime hanno il tempo pieno, alle superiori ovviamente nessuno. È giusto, è regolare che un ragazzo di 12, 13, 14, anche 15 anni debba stare a casa da solo o in giro da solo tutti i santi giorni? Può succedere, ma la regola no. Io penso che sia molto importante, più importante che gli adolescenti vengano custoditi, protetti, che non i bambini, perché i bambini piccoli si possono lasciare a una babysitter, un 12enne, un 13enne, la babysitter le fa uno sberleffo. E poi un'altra piccola cosa: bisognerebbe rivedere gli orari del lavoro, non dico gli orari dalle alle, ma per esempio io ho un figlio, il mio figlio minore lavora in Germania, se io lo chiamo dopo le 6 in ufficio risponde il portiere dello stabile, da noi alle 6, e non è che non lavorino i tedeschi, lo sappiamo, da noi alle 6 cominciano le riunioni, e questo per un padre o una madre che abbiano dei figli adolescenti, piccoli adolescenti a casa, è deleterio. Io non ho nessuna speranza né per la scuola né per il fatto che le scuole possano rimanere aperte nel pomeriggio con i tempi che corrono, gli orari vengono anzi accorciati, né per gli orari di lavoro, però lo dico lo stesso. Parliamone. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati con Isabella Bossi Fedrigotti, Alberto Pellai. Se la casa è vuota, prendiamo spunto dal libro di Isabella, che ci fa riflettere sulla solitudine dei nostri figli. Alberto, tu hai letto il libro e tante volte incontri nei tuoi cerchi del papà i genitori, i padri, è un dato di fatto. Isabella diceva: non ho tanta fiducia, speranza che cambi la scuola, i ritmi di lavoro, i tempi del lavoro sono tali per cui gli adolescenti in questa fase della vita critica vengono lasciati soli, e così però è giusto raccontarlo. Sì, e credo che tra l'altro parli di solitudine in un modo davvero non retorico. C'è una capacità profondissima nelle storie di ragazzi e ragazze che vengono raccontate da Isabella di delineare proprio la crescita, il percorso di vita da quando sono bambini, hanno 14-15 anni, e tu riesci, entrando nella storia di questi ragazzi, a vedere come un quadro all'apparenza perfetto improvvisamente si spacchi e dia di sé un'immagine completamente diversa a quella che mamma e papà prevedevano. Però dentro a ogni singola descrizione tu intuisci che cosa sta per succedere, perché effettivamente ci sono ben descritti questi percorsi di vita così soli, pur circondati da tante persone, pur circondati da tante esperienze, pur circondati da tanti oggetti, tu hai proprio la percezione di sentire la storia di bambini e bambine che crescono con la solitudine del cuore. E la solitudine ha tante facce. Questi protagonisti delle mie storie non sono necessariamente soli fisicamente, ma è una mancanza di attenzione su di loro, una mancanza di protezione, una mancanza di sollecitudine intorno a loro che li fa sentire soli. Sì, c'è ovviamente anche la solitudine fisica in qualche caso, però tra l'altro queste sono tutte storie milanesi, storie che non ho avuto, per le quali non ho avuto bisogno di andare a cercare famiglie dissestate, quartieri disagiati. quotidiano, ti sei affacciata alla finestra. Ecco, solo la finestra di casa mia, sì. Proprio solo la finestra di casa mia. Ho guardato giù, ho guardato fra i miei amici, ho guardato fra i miei colleghi. Ovviamente le storie sono vere nel nucleo, poi le ho riscritte, reinventate. E ne ho prese, sì, qualcuna mi viene anche dalla corrispondenza con i lettori. Non ho fatto nessunissima fatica, ne ho scritte 7, ne potevo scrivere 10 se l'editore. Non bisogna andare lontano per trovare il vuoto. Cioè, me le sono trovate in mano veramente. E comunque, questa è una piccola osservazione che ho fatto. Il libro è uscito 10 giorni fa. E a me sembra che molto raramente, io ho scritto anche cose letterariamente più, forse più importanti, più corpose o più per me di soddisfazione, perché scrivere un romanzo quando è finito dà molta soddisfazione. Ecco, raramente ho notato così una attenzione così forte sui temi espressi, raccontati, toccati da questo libro, e questo mi consola, cioè in un certo senso il tema della famiglia, dei ragazzi appassiona. Sì, perché in Paolina, in Lorenzo, in Francesco, che tu descrivi nelle storie, il genitore, l'adulto, trova comunque forse un pezzo di sé che ha dimenticato e trova anche un pezzo di un adolescente che gli sta crescendo vicino, che è figlio suo, cugino, nipote, parente, figlio di amici. Ci sentiamo un altro piccolo estratto? Grazie. A 12 anni Paolina era, comunque, a vederla una bambina alla quale non mancava niente. Bella, tranquilla, ben educata, ben vestita, brava a scuola e obbediente a casa. Studiava balletto e andava a cavallo. E i suoi genitori, ognuno per parte sua, stavano bene attenti che non le mancasse davvero niente. Facevano anzi a gara affinché avesse tutto quello che le occorreva, ancora prima che lo chiedesse, dagli stivali nuovi da cavallo, al computer, ai libri adatti per la sua età, alle amicizie giuste, al giubbotto che andava per la maggiore, alla settimana bianca, al soggiorno in college per perfezionare inglese e francese, al dermatologo che curasse l'ombra di brufolo che aveva sul mento. E si rallegravano, naturalmente, ciascuno per proprio conto, che dopo tutto la bambina, così seria, così serena e saggia, non doveva aver risentito più di tanto della loro separazione. Questo era un breve estratto dalla storia di Paolina, una storia che secondo me ha tantissime affinità con la storia di alcuni adolescenti. Tutto funziona alla perfezione, i genitori dicono noi abbiamo fatto il nostro mestiere, il nostro dovere, e poi in realtà si incrina qualcosa e Paolina salta proprio per aria, comincia una furiosa guerra contro il proprio corpo e noi riusciamo a intuire che c'è uno sguardo della mamma che l'ha sempre accompagnata, che probabilmente è alla radice di questo malessere. Come lo sguardo di una madre può davvero far diventare una guerriera contro il proprio corpo una ragazza adolescente? Ci sono delle, le vediamo oggi, delle madri bellissime che a 35-40 anni ne dimostrano 25, vestite come le loro figlie. Io immagino che magari la figlia è grassottella o meno aggraziata, immagino che sia un dramma, o non un dramma, ma comunque un problema per delle figlie avere delle mamme esteticamente molto esigenti. Mi è successo la racconto un piccolo episodio per dire come le madri possono pesare sulla vita delle figlie, ma ha scritto un insegnante alla mia rubrica che diceva: ho una 14enne che viene sempre in classe con la maglietta con l'ombelico scoperto. Le ho detto 1, 2, 3 volte che per la scuola non era bene, finché non è successo niente. Ho chiesto di che mandasse sua madre, è venuta sua madre e si siede di fronte a me, una signora ultra quarantenne con il berretto da basket messo alla rovescia. Io ho tirato sulla ho capito. Ho tirato sulla testa e ho lasciato perdere, ho parlato d'altro. Per dire come il comportamento estetico delle madri può lasciare zoppe le figlie. E in questo caso il padre potrebbe o dovrebbe dire qualcosa, Alberto? Sì, o spariscono questi di papà? Nuovo, credo che nel libro di Isabella Bossi Fedrigotti emerga proprio anche la latenza, la carenza a volte del papà, così fondamentale nel percorso di crescita. Si vedono dei papà che sono molto bravi dal punto di vista proprio funzionale, far funzionare un figlio, vedere cosa fa un figlio, molto molto più affaticati nel capire e nell'aiutare un figlio a capire chi è lui veramente, che cosa vorrebbe diventare, a prendere proprio per mano un figlio per vincere insieme le sfide educative che sono lì dietro l'angolo quando sei adolescente. Chiederei a Isabella Bossi Fedrigotti, proprio come donna e come mamma, ha veramente raccontato numerose sfide dentro al libro, quali sono state le sue personali, cioè nel rivedersi come genitore? Io ripeto, scrivendo il libro mi veniva da chiedere scusa ai miei figli abbastanza spesso. Il mio problema era la mamma che lavorava, un lavoro stressante, come sappiamo è quello del giornale, ma più che stressante di orari inconciliabili con una famiglia. E mi ricordo com'ero nervosa quando dovevo andare in redazione. Ma su noi come ci consolavamo noi madri, e tuttora si consolano le madri che lavorano, con l'eterna frase uovo di Colombo, è più importante la qualità del tempo che non la quantità del tempo che si passa con i figli. Io su questo avrei molto da dire, da dubitare, e per una ragione mi ha aperto gli occhi uno dei miei figli, che per la festa della mamma, lui sapeva appena scrivere, 6, 7, 8 anni, per la festa della mamma mi ha regalato un disegno. Io ovviamente, come tanti stupidi adulti, dicevo ai ragazzi, ai bambini, quando loro dicevano non andare, io dicevo devo andare a lavorare, devo guadagnare, queste stupidaggini. E allora mi ha regalato un disegno sul quale si vede una signora seduta non su una sedia con le braccia a penzoloni, si riconosce che sono io perché ci sono degli sgriffi di capelli biondi in testa, e addosso mi sta scendendo una pioggia di dollari proprio sulla testa, come una pioggia dal cielo, e sotto c'è scritto un augurio: guadagnare non lavorando. E poi col tempo ho capito che questo il desiderio era per se stesso. però vedi, io ci sono caduta perché mi sono commossa. Adesso no, anch'io, io dopo ho capito, certo, ma che scema, altro che qualità, è la quantità. Sì, perché la quantità fa la qualità. Questa casa non è un albergo. E siamo tornati insieme. Isabella, anch'io adesso che le mie figlie sono grandi mi rivedo, rileggendo anche il tuo libro, mi ritrovo in tante cose che tu ci hai raccontato, e uno dice ma che imbecille che sono stata, no? Quante occasioni mancate, quante perse, quante momenti magari non goduti, richieste non esaurite. Perché momenti perduti. Sono andati. Comunque, insomma, devo dire, no? Ce la siamo cavati ancora. Siamo stati fortunati. Di fronte a questo dato di fatto, i ragazzi sono soli. E la solitudine, abbiamo visto, ha tante facce, c'è un vuoto. Ecco, proviamo a fare due considerazioni. Non possiamo cambiare il mondo, possiamo comunque in qualche modo dare il nostro contributo, attrezzarci, rendercelo più amico, più a misura di famiglie, di ragazzi. A cominciare da che cosa, Isabella, per una mamma che lavora? Cosa posso dire? Di non nascondersi, di non illudersi, quello che dicevo prima, che la qualità si sostituisca la quantità, e che nonostante la stanchezza serale stia a parlare, trovi il tempo per parlare. Nonni, zii, zie sono preziosi in questo lavoro, ma sappiamo che gli adolescenti di regola possono stare muti per settimane, non parlare, non aprire bocca. Però magari se gli vengono 5 minuti di parlare, per parlare, gli vengono i 5 minuti per dire qualcosa, per chiedere qualcosa. E qualcuno c'è. Ecco, se in casa qualcuno c'è, non necessariamente la mamma o il papà, perché sappiamo è molto difficile, ma una figura di confidenza, una figura, una presenza confidente, tranquilla, non appariscente. Non giudicante. Non giudicante, magari c'è modo di parlare, magari approfitta. A proposito di consigli, io direi uno dei meriti di questo libro è rende visibile l'invisibile, e secondo me ci sono tantissime tracce che per i nostri figli sono apparentemente invisibili nella relazione con noi, che raccontano non attraverso le parole la fatica che stanno facendo a crescere magari in una casa vuota o in una famiglia dove è molto faticoso parlare. Il secondo aspetto che trovo importantissimo è l'aiuto della famiglia allargata e delle altre generazioni. E dico la parola generazioni non a caso, perché lì ne abbiamo un altro ospite, il dottor Davide Guarneri, che è presidente dell'Associazione Nazionale Genitori, che ha lavorato a Educa, che è in questo momento uno dei momenti a livello nazionale più importanti per riflettere sull'educazione. E proprio a Educa, tra l'altro, Isabella Bossi Fedrigotti domani parlerà del suo libro. Buongiorno Davide. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E a proposito di solitudine, dottor Guarneri, lei che cosa mi racconta? Un suo piccolo contributo? Io intanto ho un'esperienza felice perché vivo una famiglia numerosa, perché siamo in 6, 4 figli, quindi non c'è spazio per la solitudine in casa mia, soprattutto perché sono ancora piccoli, vanno dai 4 anni ai 14 e quindi c'è molta vita. E penso che davvero i bambini, i ragazzi, gli adolescenti siano la gioia per noi adulti, dobbiamo pensarli così, non tanto come il problema dei figli, il problema degli adolescenti, ma proprio la gioia, l'entusiasmo che ci manda anche avanti. C'è il rischio solitudine per tutti, io personalmente vivo qualche volta solitudine magari anche in mezzo a tanta gente. La solitudine nel nostro tempo anche dovuta magari a una ipertrofia della comunicazione, si parla troppo e si resta soli, pensiamo a esperienze di solitudine in qualche riunione completamente inutile a cui a tutti può essere capitato di andare, pensiamo a esperienze che ci lasciano un po' il vuoto dentro, ecco, queste possono essere momenti di solitudine anche quando magari si è in tanti. Io credo che il libro di Isabella, Se la casa è vuota, aiuti noi genitori ad accorgerci che i nostri figli, pur essendo in mezzo a tante cose, coccolati, assecondati, in qualche modo invitati ad esperienze sempre nuove, possono essere soli, perché solo è sempre il figlio dell'altro. Credo che i genitori di oggi siano molto impegnati a far fare cose ai figli, a far avere cose ai figli, ma fare avere è ben lontano che dal concetto di essere, che è invece il progetto di crescita di un figlio. Riprendo il titolo di Educa Generazioni, perché il primo capitolo del libro di Isabella Bossi Fedrigotti è proprio un po' autobiografico, racconta un suo crescere in una famiglia dove genitori erano probabilmente in difficoltà fra di loro, a volte attraversavano crisi profonde, ma sono rimasti lì. E mi è venuta questa curiosità, lei racconta quei genitori, dice alla fine sono rimasti lì perché li abbiamo fatti rimanere noi figli, e poi racconta invece genitori che un po' si danno alla fuga, cioè vanno altrove. C'era qualcosa che rendeva più forti quei genitori rispetto ai genitori di oggi, che effettivamente sono genitori fragili di figli fragili? Noi ragazzi eravamo più forti perché eravamo in 4. Questo rende più forti, eravamo molto uniti, e io penso che questa forza e questa unità anche nella decisione mai spiegata, mai messa in tavola, di proibire ai nostri genitori di separarsi, gli abbia dato forza, perché avranno capito, erano tempi in cui ci separava molto meno, però penso che gli abbiamo dato una ragione. Ma sì, devo dire, forse hanno detto ci arrangiamo, forse hanno detto, io non so perché avevo 12-13 anni, forse hanno detto se ci vogliono così è segno che non gli importa così tanto se noi litighiamo. In effetti era un sottofondo quasi piacevole, no? Poi sì, uno era, si abitua. Cioè, parlavano, sì. Ecco, forse è stato meglio questo che non i silenzi glaciali. Con questo io ovviamente non voglio dire che non bisogna separarsi, per carità, però non sempre una separazione civile è meglio di una turbolenta convivenza. Non sempre, sempre. Posso aggiungere un'osservazione che a me è venuta leggendo proprio quel capitolo? Io credo che un'altra delle forze è che, se anche litigavano tanto tra loro genitori, avevano una sanissima passione per i figli. Cioè, noi intuiamo in quelle pagine che poi tutto il tempo in cui riuscivano a stare coi figli era un tempo meraviglioso, e credo che sia molto differente da alcune storie di genitori sempre raccontate nel libro, dove è così complicato essere adulti che funzionano e poi magari falliscono, per esempio il progetto di coppia, che anche il tempo con i figli diventa un tempo di grande fatica. È più difficile di tutti. Io ho sentito, insomma, tanti mi dicono: noi andremo perfettamente d'accordo, litighiamo solo per i figli. Io immagino il caso dei miei: loro, nell'idea di separarsi, capivano che avrebbero perso parte di noi, perché se si separano loro, o i figli vanno da una parte o divisi, o comunque uno di loro avrebbe perso un po' di figli. Dottor Guarneri. Aggiungerei un'altra piccola riflessione, potrebbe sì. essere questa. In un rapporto tra generazioni, come un po' il tema di Educa, noi adulti rappresentiamo in qualche modo la storia, il passato, qualcosa che deve essere consegnato al presente, che sono i ragazzi. Ma proviamo insieme anche a elaborare un po' di futuro. E allora, forse, avendo qualche sogno, qualche idealità rivolta verso il futuro, le difficoltà del presente diventano un po' più relative. Immagino la generazione dei miei genitori o dei miei nonni. I miei nonni hanno attraversato la guerra, i miei genitori erano subito dopo, eccetera. Avevano il sogno di costruire un paese, di avere una professione, un'attività, eccetera. E forse noi oggi, come adulti, ci siamo molto seduti e speriamo poco. Quindi, in un rapporto tra generazioni, inseriamo anche questo tema del sognare, del proiettare qualcosa in avanti, parlandone con i nostri figli. Allora, domani con Isabella Bossi Fedrigotti, l'incontro ad Educa, anche a me piacerebbe, no, materializzarmi lì, però io sono contenta perché me la sono tenuta qua un'oretta per me, anzi tre quarti d'ora per me, ma la sono proprio, come si dice, bevuta. Alberto? E io devo consigliare davvero la lettura del libro Se la casa è vuota, un libro che è stato scritto da lei ma che si riscrive dentro di voi nel momento in cui lo leggete. Un bacio a Isabella Bossi Fedrigotti. Grazie. In bocca al lupo, grazie. Grazie davvero di essere stata con noi, grazie a voi che ci avete seguito e accompagnato. Appuntamento al prossimo sabato invece per la salute. Noi ci sentiamo come sempre lunedì dopo il GR delle 11. Buon weekend.